fossi io, viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Un grido d'allarme sta correndo per le terrazze romane, per gli happy hour milanesi, per i portici torinesi, per i caruggi genovesi. Un mondo è in fremito. Una parola sta riunendo masse folle di persone. C'è un cicaleccio continuo, l'ho avvertito questa mattina arrivando al lavoro. La parola è stringozzi alla carbonara. Sì, perché tutti dovranno fare confezionare gli stringozzi alla carbonara. Da quando questa mattina è uscito sui giornali che la moglie di Barack Obama, Michelle, era stata obbligata a non rivelare al mondo il suo segreto, che ama gli stringozzi alla carbonara, perché per gli strateghi del Partito Democratico veniva considerato qualcosa di troppo snob, ma adesso che è la First Lady, adesso che entrerà alla Casa Bianca, può dirlo al mondo. Fa parte della cerchia ristretta delle persone che amano il cibo naturale. Delle persone probabilmente vorrebbero andare a vivere in campagna. E quindi questa mattina, affascinati da questo sogno, che devo dire è un po' il nostro segreto desiderio, tutti i nostri amici hanno un casale in campagna, tutti vivono in campagna, tutti ci dicono che noi siamo cretini, noi assatanati, avvelenati dal monossido di carbonio, noi che ci pettiniamo la fuliggine tra i capelli la mattina. Eh sì, voi non capite niente, noi siamo andati a vivere in campagna. Beh, staranno lì questa mattina, tutti pronti a confezionare gli stringozzi alla carbonara per essere come la First Lady americana. E sono lì pronti con il grano del tavoliere raccolto con un falcetto di bronzo lavorato a freddo, in macina di pietra, pietra della gallura naturalmente, acqua filtrata nelle bottiglie di cristallo Swarovski. E sono pronti con questa bella pancetta filettata a mano da porcellini malesi, alleviati sui gianicoli sui giardini pensili del grattacielo girevole e che affaccia sulla piramide di Gaza. Cioè, se, bisogna sempre trovare degli ingredienti che sanno qualcosa di esotico e qualcosa di naturale, qualcosa che noi non capiamo, noi che siamo affogati, noi che ci mangiamo le mani, noi che ci mangiamo il fegato, noi che viviamo avvelenati, non capiamo quanto sia bello vivere in campagna. Mi chiamo Paolo, ho poco più di 50 anni, sono circondato da queste persone che tutto sommato considero, chiamiamoli radical chic, ma in realtà forse il termine giusto potrebbe essere snob. Mi è capitato sere fa di andare a cena da una di queste persone e naturalmente il menù era proprio datato, ancora si parla di zuppa di farzo, di orzo tibetano, sempre questi concetti etnici in tutto, penne alla rucola, e me lo sono proprio scritto, penne alla rucola con pesche, pomodori di malateo e timo, questo timo sempre presente che ti ossessiona, non si sa perché, patate alle erbe di Provenza. Il nostro amico ha dato il là 800240024. Oggi vediamo cosa si nasconde dietro il mito: andiamo a vivere in campagna, noi ci cibiamo soltanto di prodotti naturali. È vero, è giusto, figuriamoci, io sono nato in campagna, io ho vissuto assieme ai contadini fino all'età di 14-15 anni circa. Io il latte la mattina andavo a prendere sotto alle mucche con il mio pentolino e poi la mamma me lo scaldava e faceva quella bella panna che non esiste più. Io il pomodoro, la salsa di pomodoro, lo so che è frutto di nottate in cui dovevano bollire queste bottiglie, ogni tanto scoppiavano, c'era questo profumo di carta bagnata di giornale che avvolgeva le bottiglie e di polpa di pomodoro che usciva fuori gloriosa. Quante ne sono scoppiate? Soltanto 5, bene. E i tappi si mettevano di sughero, mia nonna li ficcava dentro con il martello, poi li legava con lo spago. Figuratemi, suonavamo la campagna, sentivo l'odore di cacca di mucca la mattina che fendeva la nebbia e ti arrivava dentro le narici quando dovevi andare a scuola, la gallina. Ecco, la gallina la andavamo a prendere nel pollaio, la serva la sceglieva, quale vuoi, questa, quell'altra, e gli tirava il collo davanti a noi bambini. Guardavamo la gallina sgambettare, non vedevamo l'ora di vederla in padella. A gennaio, quando si ammazzava il maiale, era una grande festa. Ci nascondevano perché non dovevamo vedere, ma in realtà guardavamo tutto da uno spiraglio. Questa scala che preparavano con il maiale pronto, poi lo prendevano, lo scannavano, l'urlo del maiale era fortissimo, fendeva la mattina, arrivava attraverso le colline. Ho sentito qualcosa di simile, non vi scandalizzate. Quando ho visto quei terrificanti video su YouTube degli islamici che tagliavano la gola ai loro ostaggi, beh, l'uomo sgozzato fa lo stesso urlo terrificante che esce fuori dalla carotide tagliata che fa il maiale. Ma allora era un urlo che non rappresentava orrore, rappresentava gioia. Quel maiale scannato, fatto a pezzi, risorgeva immediatamente. La sera già avevamo quel buon odore di lardo che sapeva di pepe, già vedevamo i salami arrovellati attaccati alla cantina con il pungitopo per non farci salire i topi sopra. Quindi figuratevi, se non amo la campagna. Ma odio gli improvvisatori, odio i ricostruttori, odio gli artificiali evocatori della campagna che non esiste più, che loro non hanno mai conosciuto, perché sapeva di sudore, sapeva di tristezza, di crudeltà, di figli dei bambini mangiati dai maiali, di bambini che si ammazzavano a bastonate, di contadini che si odiavano, di forconate date sull'aia, di donne tradite nel pagliaio, di maschi che si inseguivano puzzolenti e sudati, di scarpe messe dentro il primo frigorifero degli anni 60 perché pensavano che quello servisse per tenere le scarpe fresche d'estate. Beh, questa era la campagna che io conosco, non è la campagna del nostro amico. Anche noi abbiamo fatto queste cose quando facevamo gli etnici, però si parla del 72, 73, 71. Ti portano a tavola, non so, un piatto di ceci e non ti dicono questi sono i ceci come faceva mia madre, ti dicono sono i ceci di Timisoara, o le lenticchie devono essere per forza di Dakar, oppure di Itaca. E tutte queste cose assurde, naturalmente tutto accompagnato con tè verde, tisane, sempre queste tisane presenti in ogni modo, in ogni posto. E naturalmente tutto integrale e rigorosamente biologico. Mi è capitato di rincontrare una di queste mie amiche, anche lei ferma al 68, irriducibile. Mi invitò a mangiare in un posto dove facevano le famose minestre alternative. Io proprio con una sorta di cattiveria le dissi, no, guarda, vieni, conosco io un posto, ti faccio mangiare i rigatoni con la pagliata, la coda alla vaccinara, apposta con cattiveria. Bene, stanno già arrivando i primi messaggi, divisi a metà tra i radicali figli dell'asfalto, come mi dice appunto Ileana. Io sono figlia dell'asfalto, non mi distaccherei mai, sono traviata geneticamente, deformata dentro, ormai bacata, non è antiradicalismo, scicchismo, è proprio così. E quelli che invece mi dicono perché non capisco la bellezza del casale alle porte di Roma, del casale in Sabina, di farsi l'olio da solo con l'olivo del proprio orticello, di andarsi a spremere le olive a freddo, di andarsi insomma a ricercare quei reflui lontani, quelle allucinanti immagini che appartengono a un mondo che nessuno, probabilmente molto pochi, hanno vissuto veramente. Ma io voglio questa mattina appoggiarmi su punti di vista che vadano oltre le mie semplici intuizioni. Ho al telefono il professor Luigi Maria Lombardi Satriani. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. È titolare della prima cattedra di etnologia alla Sapienza di Roma. Lei mi dovrebbe confortare su questa mia visione. Io sono nato contadino, cioè ho vissuto nella terra fino all'età di quasi 15-16 anni. Oggi mi capita di frequentare delle visioni della campagna ricostruite artificialmente, che sono finte come sono finti i parchi a temi di Disneyland o di Gardaland. Ecco, noi italiani perché abbiamo questa nostalgia di ricostruirci la campagna nei nostri terrazzi affacciati sul Gianicolo? Abbiamo nostalgia perché evidentemente una società ha sempre bisogno di un passato, ha sempre bisogno di radici. Quando per processi di modernizzazione o anche per un'ideologia che presenta il nuovo come positivo e tutto ciò che sa di antico come negativo, quando questo passato viene o distrutto o viene reso indicibile, vergognoso, tra virgolette, in qualche maniera lo si inventa. E allora c'è anche un passato artificiale, una campagna inventata, ma questo mostra proprio paradossalmente il bisogno di passato che comunque c'è, attraversa anche la società contemporanea. Io mi ricordo, professore, avendo vissuto, diciamo, essendo un baby boomer, come si dice, il meraviglioso momento del boom economico, poi gli anni dell'autocoscienza, che il passato contadino, le radici contadine della propria famiglia, l'aver lavorato la terra, veniva in una certa fase della nostra civilizzazione invece nascosto, come se fosse una vergogna. Chi veniva dalla campagna lo nascondeva quando si inurbava. Il basilico coltivato nella vasca da bagno era il marchio d'infamia dell'immigrante che dal sud andava a lavorare nei grandi stabilimenti del nord. Era considerato come una sorta di residuo da dover dimenticare o tenere nascosto. Oggi improvvisamente tutti vorrebbero avere avuto un passato contadino, perché c'è questa rivalutazione di ciò che una volta veniva considerato come un'onta, sbagliando naturalmente. Molto spesso esempio di cattiva coscienza sia l'uno che l'altro caso, sia una arcaicità pensata come colpa, come vergogna, sia un'arcaicità ostentata come merito assoluto, con un'enfasi molte volte retorica. In realtà noi non possiamo fare a meno di passato, di radici, come dicevo prima, ma vanno assunte criticamente e tenendo conto che di questa antica cultura contadina molto è cambiato, né può essere diversamente, perché una cultura è un fatto vivo, è un organismo vivo, quindi alcune cose permangono, altre si trasformano. Pensiamo ai giovani o anche i non più giovani, ma che sono stati giovani 10-20 anni fa, è logico che il loro comportamento, le loro frequentazioni, i loro gusti, il loro abbigliamento, il partecipare con i giovani di tutte le altre aree a una nuova cultura pronta ad acquisire nuove esperienze, tutto questo è cambiato. Eppure in questa società in cui molto è cambiato permane anche l'antica cultura contadina negli universi simbolici, nei riti. Pensiamo alla forte persistenza dell'ideologia della morte, il rapporto con il mondo dei defunti, il rapporto appunto con l'aldilà e con la religione del ricordo, tutto questo. Non pensa, professore, mi scusi, che quella che viene chiamata civiltà contadina, molte volte rappresentata dei musei dove mettono aratri, falcetti e macchine per trebbiare, abbia oggi una visione leggermente ottimistica? Io la ricordo come una civiltà spietata, di una crudeltà unica, in cui i valori erano molto relativi e molto superficiali. Quello che si facevano nelle famiglie dei contadini erano crudeltà inimmaginabili. E poi c'era anche il fatto positivo, naturalmente. Ma c'era un rapporto che noi abbiamo dimenticato con la terra. Ma nessuno ricorda questo, però. Io non penso che non ricordi, nessuno proprio ricordi questo, perché l'atteggiamento critico, l'atteggiamento scientifico, tutti i giovani che seguono i corsi di antropologia sono abituati ad esempio a guardare questo con spirito critico, cioè senza farne oggetto di condanne globali, senza neanche farla oggetto di mitizzazioni, di esaltazioni globali. E questa ambivalenza delle forme culturali, questo fatto che una cultura in parte si trasforma, in parte permane, non è che deve meravigliarsi, perché noi continuiamo a pensare la cultura nel senso antropologico di mentalità, di insieme di valori e di modelli di comportamenti, di azioni e di cose, e noi la pensiamo molte volte come qualcosa che si ha, come qualcosa che quindi si può depositare in una banca ideale alla quale si può fare riferimento quando serve, ma questa è una concezione sbagliata. Una cultura non si ha, si è quella cultura, cioè si declina secondo l'essere, non secondo l'avere, la categoria. Vediamo se alla luce di quello che ci ha detto il professor Lombardi Satriani, che ci ha fatto un quadro di introduzione antropologico su quella che è la civiltà contadina, su quello che naturalmente come la percepisce un antropologo, ma probabilmente diversamente la percepisce un campagnolo acquisito, un campagnolo ricostruito. Abbiamo Claudio al telefono. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Lei è un manager Si è regalato la campagna, se ho capito bene, o qualcosa del genere? No, io praticamente ho avuto un'infanzia fino a 15-16 anni con di contadini, fra virgolette, perché mio padre aveva quello e aveva anche un ristorante sempre nell'ambito però della campagna. Quello che vorrei dire è che in quei periodi io ho potuto assaggiare che cosa voleva dire ammazzare un maiale, mangiarne il sangue fritto come appunto succedeva a quel tempo, piuttosto che tante altre cose che hanno fatto sì che io potessi arricchirmi di che cosa voleva dire andare la mattina a prendere le uova calde nel pollaio delle galline. Ma lei ce l'ha gli amici campagnoli inventati, quelli che vanno in campagna però con le scarpe firmate? Sì, io infatti volevo dire alcune cose. Parliamo di quelli, perché è quello che ci interessa. Mi ha anticipato giustamente il professore parlando con parole sicuramente più calzate. Perché sono anche vegetariani magari, capito? Sì, esatto, però come diceva bene il professore, io lo dirò in parole povere, oggi non si diventa campagnoli o contadini andando 3 giorni in un agriturismo a frequentare queste cose, non lo si diventerà mai, non ci si potrà mai arricchire di quello, anche se si vuole respirare una moda, perché poi alla fine è una moda quella dell'agriturismo piuttosto della concezione di contadino. Nell'estate fanno sempre questa grande pubblicità, passare dei momenti nei conventi, però non vuol dire niente. Cioè, nessuno si salva l'anima passando una vacanza in convento. No, si tranquillizza un po', si toglie un po' lo stress di dosso e basta, ma essere contadini, aver assaggiato quei sapori o quegli odori, come parlava lei prima, dell'odore di mucca e tutto il resto. Sì, che poi è puzza di cacca, non ci prendiamo in giro. Però fa parte. Sì, però è bellissima, certo, sì. In confronto allo smog, ecco, è bellissima di certo, insomma, uno la respira a pieni polmoni. Oggi è una moda, tutto quello che si sta dicendo adesso è una moda e basta. Grazie Claudio, e abbiamo Luigi che mi sembra che sia un vero contadino. Luigi, buongiorno. Ciao. Dunque Luigi è un contadino che però comunica con noi attraverso Facebook, quindi dimostra che in fondo le contaminazioni in campagna sono già avvertibili, non soltanto nella qualità del terreno. Luigi, lei lavora la terra, veramente? Certo, io sono proprio un coltivatore diretto. Sì, perché oggi dire contadino sembra brutto, sembra bellissimo. In effetti, sì. Ma succede anche qui, dalle nostre parti, nel mio comune, che è un comune piccolissimo, ho sempre sentito addosso quella discriminazione. Senta, ma lei li vede invece i finti contadini, quelli che prendono il casale, vengono all'agriturismo? Io sono stato ieri in un posto meraviglioso a comprare l'olio d'oliva appena spremuto. Era bello, perché prendere quell'olio lì mi piaceva molto. Certo. Ma c'era una fila di signore e di signori che venivano con il loro SUV, con le loro lattine, che in punta di piedi erano attenti a pestare la cacca della gallina, si turavano il naso, perché c'è l'odore, la polpa delle olive spremute, la samsa, puzza tantissimo, è acida, terrificante. E attente vedevano l'olio che scorreva giù, poi oggi è tutto perfettamente anestetizzato. Io ricordo ancora le spremiture delle olive fatte in maniera tradizionale, che veramente era anche un po' zozzetta. Guarda, la cosa. I miei avi avevano pergiunto un frantoio qui nella zona, figurati un po' se non... Beh, mi parli dei ripuliti un po', come li vedi te, contadino? Ah, cosa vuoi che vedi? Ti ho scritto, come ti ho scritto qualche frase sul... È tutta una finzione, perché non si riesce ad entrare nell'ottica del vero contadino. Noi, che poi a parte tutto subiamo anche le problematiche, quelle vere, economiche. Certo, chiaro. Io ci tengo più di tutto a quello, a sottolinearlo. Noi è una vita piena di sacrifici, quello è vero. La campagna, teniamo vivo il territorio, però alla fine siamo gli ultimi, comunque gli ultimi. Cos'è? Ho sentito suonare, tu stai suonando in una banda, sì, io sono per hobby, suono in una banda. Sì, ma siete lì con la banda voi? Sì. Perché non suonate? E perché qui stiamo in pausa. Ma tu che suoni? Che strumento suoni? Sax baritono. Fammelo sentire, ce l'hai in mano? Sì. Suona? Aspetta. Posa il telefono e suona. Vediamo se riusciamo a riempire questo spazio. Sax baritono. Ok? Sì, con... Sì, abbiamo dato origine a un paradosso senza limiti, un contadino che suona il sax, che ci comunica tramite Facebook. Anche il vostro amico su Facebook. Sì, va bene, perché... bocca al lupo, buona sonata e buona mangiata. Però adesso, Tommaso Labranca, sei in linea? Sono qui. Ecco Tommaso, tu probabilmente hai modo più di me di vedere quelli veri, quelli che vivono nella Milano che io non frequento. Parlami di qualcuno di questi reperti meravigliosi di antropologia metropolitana, i contadini acquisiti o ricostruiti. Ma guarda, intanto questa cosa del ritorno alla campagna io la sento da quando ero piccolo, per cui sono 40 e passa anni. Cioè, dobbiamo tornare alla campagna. È che dobbiamo ritornare alla campagna, ma anche chi in campagna come me non c'è mai stato. Cioè io sono costretto a mangiare le merendine naturali, cioè mi fanno male, io voglio quelle lì artificiali, perché ormai il mio corpo si è basato su quelle. E invece sono circondato veramente, come anch'io ti ho scritto su Facebook, da persone che abitano in quartieri molto alla moda, non ricchi, ma molto alla moda, anche un po' straccioni, ma proprio per questo la moda, e blaterano di aperitivi bio, di vacanze naturali. Però in queste persone bisogna notare una cosa, che non c'è più l'idea della fattoria. Cioè la fattoria alla nonna papera non esiste più, adesso va alla masseria, perché, sì, perché è questo, il loro è chiaro. Riferimento è il Salento. Il Salento. Un Salento inesistente, un Salento turistico fatto di 15 giorni di finta pizzica e di queste cretine con i gonnelloni che ballano. Ma io dico, andassero veramente ad abitare lì, in questa terra dura, arida, a mangiare pomodori secchi, allora sì, è un ritorno. Allora senti, Tommaso. Melog 2.0. La devi smettere di rompermi le scatole tutte le mattine all'alba. Ti avevo avvisato. Gallo avvisato, mezzo accoppato. Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu. Artemio! Artemio! Sì, mamma! Il caffè latte è pronto. Arrivo, mi vesto e arrivo. Mamma, porca miseria, questa casa è troppo fredda. Per forza, la casa è grande, come si fa a scaldarla tutta quanta? E allora prendiamone una più piccola, più moderna, più attrezzata. Cosa fai? Mangi? E la preghierina non la dici? Padre nostro che sei nei cieli, spero che tu stia bene, perché io qui faccio una vita d'inferno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, possibilmente fresco. Faccio presente che non ho debiti, non ho debitori. Dove vivo non ci sono tentazioni, così è. Così è. 800 24 00 24. Questa mattina parliamo della campagna vista come parco a tema, della campagna onirica, della campagna immaginaria, della campagna fichettona, della campagna che fa tanto di moda frequentare. Parliamo del Salento ricostruito, come diceva Tommaso Labranca, che è in ascolto con noi, è stato preso da Diana, che dice su Facebook: la finta pizzica, la folclorizzazione turistica è una maledizione da rifuggire come la peste bubbonica. Poi Simon dice: la città ci ha anestetizzato da tutte le necessarie componenti di cinismo, cattiveria e sopraffazione che la vera natura richiede. Con il termine aggressivo è politicamente corretto solo se si riferisce a una campagna di marketing. La natura non è solo una moda, è un bisogno che però noi metropolitani vogliamo soddisfare come in un ottovolante. Un brivido senza rischi. Tommaso, sei d'accordo su quest'ultima lettura? Sì, sono assolutamente d'accordo, perché di questa presunta campagna, sia la fattoria o la masseria, il finto appassionato di natura vuole soltanto le cose belle, vuole il deodorante, appunto, come dicevi tu, sul letame. Io sono di origini pugliesi, mia nonna è vissuta effettivamente in una masseria, mi raccontava anni fa che nei periodi più caldi non c'era acqua, bevevano la pipì dei cavalli. Io non so quante belle signore dell'isola o dei quartieri chic delle città italiane siano disposte a fare questo quando vanno in Salento, penso ben poche, però l'importante è andare lì e godere una specie di Disneyland dell'agricoltura, cose che non esistono assolutamente. Oggi negli agriturismo masseria in Salento c'è l'aria condizionata, non c'è questo problema. Sì, sì, ma infatti, non ti ripeto, perché tutta naturalmente una finzione. Ma c'è un'altra cosa che mi sconvolge. Io ho visto qua dove abito dei gruppettini che fanno hip hop, rap e cose del genere. Dove abiti più o meno, così lo capiamo? Io abito la in zona. Una zona non campestre, io abito vicino a Linate, che sembra campagna ma non lo è, questo paese si chiama Pantigliate. È una zona agricola, è diverso, perché praticamente è industria agricola, per cui non c'è nulla della campagna che uno può sperare, i galli e così via. Ecco, qui ci sono dei gruppettini che fanno hip hop, fanno rap, che declamano le bellezze del Salento, che è assurdo, perché l'hip hop è una cosa tipicamente urbana, dovessi declamarmi gli scenari alla Sironi delle città industrializzate, invece loro pensano sempre a questo Salento, perché lo vedono come il regno della bontà, il regno delle cose giuste, il regno del buono, mentre tutto il resto è cattivo. Cioè si vive sempre così, no? La campagna è buona, la città è cattiva. Poi naturalmente quando gli dai le cose vere, campestri non le vogliono. Prima il professore parlava di riti tipici della cultura contadina. Se tu avessi proposto Halloween per quello che è, ossia un rito tipico della cultura contadina, l'avrebbero rifiutato. Glielo ridai smaltato e con questo cortocircuito che arriva dall'America e loro lo accettano, perché vedi che sono doppiamente imbecilli. Va bene la Wiccan, la strega che viene dal nord, non va bene la macara pugliese, che era una vecchia puzzolente e schifosa che stava nei paesi, serviva a fare maleficio, fare o ricreare la virilità perduta ai mariti, ma serviva soltanto a fare dispetti soprattutto, e se ne parla moltissimo, c'è tanta letteratura. Grazie Tommaso, passiamo a Battista, che Battista non è naturalmente d'accordo con quello che noi diciamo, perché gestisce un agriturismo. Battista, buongiorno. Ciao a tutti, ciao. Sì, io sono uno di quelli che a un certo punto ha deciso di tagliare la strada, tagliare col passato, e sono andato in campagna con mia moglie, abbiamo 3 bambini. Io vivo di agriturismo, ma ci credo profondamente. Sì, ma tu vivi delle persone che noi stiamo descrivendo, però, sono io i tuoi clienti. Questi. Allora, intanto ti dicevo, per quel che riguarda le mode, per quel che riguarda il bio, per quel che riguarda slow food, io penso che sono finite quelle epoche lì. Noi dobbiamo offrire, come faccio io, un'idea propria, personale, nostra, di quello che facciamo. Io sono venuto in campagna perché volevo questo. Che tipo, che zona sei d'Italia, per capire? Sono ad Alba, proprietario del tartufo. E noi abbiamo avuto molta gente. Io mi sono ricreduto molto sugli abitanti della città. Dunque, sono stato ospite di persone ricche, io non ci andrei mai con i miei mezzi, in un ristorante strafighetto al centro di Milano, non ti dico il nome. Una cosa noiosissima, perché anche per mangiarsi un pezzo di pane bisogna sentirsi un cameriere che ti descrive da dove viene quel pane, il grano, la farina. L'altra sera ci ha portato sotto una cupola di vetro un affare bianco, cioè devo presentarvi questo tartufo. È stato mezz'ora a presentarci il tartufo, noi naturalmente l'abbiamo rifiutato, ma devo dire che in quel contesto anche il buon sano frutto della terra, raccolto con un maiale che grugnisce e che lo trova, mi sembrava qualcosa di lontano, inesistente, non mi veniva più voglia di mangiarlo. Come mai, secondo te? Io ti dico che in questo momento i tartufi non li servo perché sono cari, e dico che sono cari e non li stiamo servendo. Sì, era 250 euro, infatti l'abbiamo fatto chiacchierare e poi ci siamo fatti una risata. Siamo a 450-500 euro, ho detto non ci sono, ma come, siamo venuti in lontano? Non ci sono, perché io non li ho ancora mangiati, da me la TV non c'è perché io in casa non ce l'ho. Però ti devo dire che sono molto più sensibili gli abitanti della città, non è vero che sono fricchettoni o che vanno a ricercare delle cose. Un po' che sì, non dai, ci vivo, sono più, credimi. Sono più sensibili loro di quelli. E ti dico un'altra cosa che tu non hai considerato: il 95% del suolo agricolo italiano è coltivato da contadini che stanno sul trattore tutto il giorno con lo stereo e il condizionatore, e la terra non la toccano più con le mani. Forse la toccano di più i fricchettoni che sono andati a vivere nelle valli. Ma questo è un dato che a noi interessa, lo so bene, credimi, tengo d'occhio quello che sta accadendo, anche perché ci sono vissuto io il trattore l'ho guidato da ragazzo, anche se avevo soltanto 12 anni non si poteva, però lo facevamo perché era normale, quindi so cosa significa. Mi fa piacere, vedi, il contadino che ci ha chiamato comunica con noi tramite Facebook e si può permettere una mattina di andare a suonare nella band perché è il suo hobby, si diverte. Quindi grazie a Dio ancora ci sono persone che si occupano della terra in maniera diretta, la coltivano direttamente. Quello che mi fa un po' ridere è questa immaginaria ricostruzione, questa sorta di fantastico paradiso fatto di campagna, tradizioni contadine, di ciò che c'è bello e ciò che invece assolutamente non fa parte di ciò che piacerebbe avere. I tuoi clienti medi, tipici, cosa fanno e cosa ti chiedono? I miei clienti vengono e all'inizio hanno molte pretese perché sono abituati nel mondo in cui quella regola stupida che io non ho mai seguito, che il cliente ha sempre ragione, per me è una fesseria totale. Tu sei a casa mia, stai a gioco, se fossi in Turchia non sapresti neanche parlare la lingua, ti siederesti in un tavolo e mangeresti quel che ti danno, e da me mangi quel che ti do io, e poi se non ti vai la facoltà di non tornarci più, o perlomeno se non vuoi pagare puoi anche andare, tanto non è un problema, non muoio per quello. Allora si calmano subito, all'inizio un po' di pretese, mi porta qua, mi porta la lista dei vini, io la lista dei vini non ce l'ho, perché faccio il vino, è il mio e si chiama il vino, mia nonna faceva l'osteria come me e c'era il vino ed è sul tavolo. E cosa chiedono loro invece? La lista carta, di vini. E mi dice il menù, ma il menù non lo e so. E vanno all'agriturismo e chiedono il menù, è controsenso. E chiedono la carta dei vini, io non ce l'ho la carta dei vini, perché è un vino solo ed è il vino della mia azienda, è un vino rosso da tavola perché ho rifiutato le DOC, perché le DOC sono fatte di carta straccia, e ci sono delle bottiglie a 2,90 € nel supermercato che sono denominazione origine controllata. Il vino di Battista e di Alessandra costa 5 € ed è... Non parlarmene, ieri ho visto la roba con cui si fa l'olio d'oliva, quello che c'è scritto olio d'oliva, è una sorta di mucchione di letame su cui deve essere passata trielina e acido solforico per trasformarlo in olio, quindi figurati, mi inviti a nozze, parliamo di queste cose qua. Quindi va bene, sono contento che ci ha dato almeno uno squarcio realistico, che oggi va un agriturismo sappia che non va assolutamente in un ristorante in cui si chiede la lista dei vini. Elena, buongiorno. Buongiorno, allora io sono una cittadina appassionata. Anche se, data la mia età, è chiaro che ho ricordi... Qual è la sua età? 64. 64, va bene, sì. Ecco, ma... ho avuto di meglio, sono arrivata a 81 venerdì, quindi ancora sia tranquilla. Ce n'è. Allora, dicevo che ho sempre vissuto in città, però è chiaro che ho conosciuto la campagna, quella vissuta proprio. In che anni l'ha conosciuta? La raccolta delle olive quando fa freddo, che ti metti lì a dividere le foglie dalle olive, è un po' pesante, eh? Quindi io credo assolutamente che chi lavora in campagna e lo fa davvero abbia una grossa fatica, ma non capisco assolutamente chi va per 15 giorni, per non so, insomma, per 3 giorni. Deve per... essere chiaro, sennò veniamo fraintesi. Qua nessuno si permette di giudicare o dire che fanno male. Noi osserviamo, non capisco. Sì, osserviamo come reperti o come avanguardie antropologiche della nostra contemporaneità, certo, le persone che vedono o si beano o sono felici di vivere in dei barlumi di campagna che in realtà ha poco a che fare con quella che è la campagna, con quella che è la vita della campagna. È un'illusione, come andare in palestra e immaginare di correre, invece in realtà si sta sul tapirulan. È un'altra cosa. Quindi forse Gaber, quando cantava Come bella città, non lo so, con la sua ironia un po'... La città è bellissima, la città fa schifo perché puzza, ma in realtà le nostre emozioni, le nostre relazioni, i nostri incontri, le nostre speranze, i nostri figli vivono, crescono e si alimentano di questa città. Quello che ne sarà non lo sappiamo. Ricordo Manuela un detto che sentivo dire molto spesso: la terra è bassa. La terra è bassa vuol dire che per coltivarla bisogna stare piegati, bisogna stare curvi, è faticoso. Probabilmente la terra è meno bassa quando si sta distesi sulla chaise longue e si sorbisce l'aperitivo fatto con ingredienti naturali. Anna, buongiorno. Buongiorno. Io telefono da Milano e volevo proprio parlarti di questo sapore della campagna. Noi viviamo a Firenze con la mia famiglia e avevo i nonni, invece la mamma di mia madre, che aveva una fattoria bellissima, ovviamente adesso c'è ancora, ma lei non c'è più, in Chianti. E io mi ricordo benissimo che i miei genitori, il venerdì sera mio papà mi accompagnava dai nonni, me e mio fratello, e lì si riuniva tutta la famiglia di mia nonna, che aveva 7 figli, lei figlia unica, ma aveva 7 figli con tutti i cugini, e stavamo lì, passavamo lì il sabato, la domenica. Sì, però lei vive in città, era un ricordo. Io vivevo in città, sì. Quindi andavate a fare i bambini di città che andate a vedere i nonni in campagna, una bella cosa, ma... Sì, e anche quando c'erano le vacanze, ovviamente, non era come adesso. Non è che prendeva le mucche, le portava fuori dalla stalla e metteva loro il gioco, le portava nei campi, no? Sì, infatti. E con le sue manine di bambina di città? No, non è possibile. Invece è vero, è bellissimo ed era una cosa stupenda. E perché non c'è rimasta allora in campagna, signora? No, perché poi mi sono sposato, ho fatto tutto un altro iter. Poteva sposare un contadino? A Milano, eccetera, eccetera. Perché non ha sposato un uomo di campagna? No. Ecco, quindi la campagna è un'esperienza limitata, corroborante, che però assolutamente non deve essere una scelta di vita, perché è antitetica al desiderio di espansione, di velocità, di conoscenza e di contaminazione che abbiamo oggi noi cittadini. Non c'è più, è morta. Siriana, buongiorno. Buongiorno, mi scuso, sono molto emozionata. Io ho 58 anni, diciamo, sono figlia di contadini. Il mio padre era mezzadro. Quindi... Ecco, no, finalmente allora una testimonianza verace di cosa significava la vita, sì, contadina. Ecco, era veramente un mezzadro, e quindi voleva dire in metà del raccolto, non mi ricordo se era il 58, il 48, non mi ricordo, andava al padrone. Sì, dopo che ci fu la legge, e già era un passo avanti con la legge della mezzadria, perché io prima... Io sono nata nel 50, quindi insomma, e il mio babbo mi chiamava la mattina alle 5 per andare a rimettere insieme i grani, dopo andava a scuola. E poi nel tempo quando si metteva il grano della battitura, non si batteva nei campi. Sull'aia si batteva? Sì, si tagliava nei campi, si riuniva tutto e dopo si ricaricava e si portava sull'aia. quindi noi ragazzi di 7, 8 anni, 9 o così, per aiutarli a rimetterlo insieme la mattina per il fresco, perché poi era troppo caldo e quindi il grano poi bucava, e quindi alla mattina alle 5 si chiamavano e si andava nei campi a aiutarli. Tempo di battitura ci usavano per portare da bere agli uomini, poi c'era il grano turco, quindi si aiutava a schiccolarlo, si metteva sull'aia, poi c'erano gli animali nei campi per raccogliere le mele, le zucche per dare ai maiali, o si aiutava la nonna a controllare la luce dove andava a fare l'uovo, insomma queste cose qui. E insieme a questo dovete andare a scuola con gli altri bambini, che invece magari facevano un altro tipo di vita. Dobbiamo considerare che non avevamo riscaldamento, e d'inverno l'acqua ghiacciava sul comodino, se si portava i bicchieri d'acqua in camera la mattina si trovava ghiacciato, e gli uomini tornavano da campi e puzzavano veramente, ma non era come ora, se torno a casa si fa la doccia. No, l'inverno era un po' problematica. La mia mamma aveva una tinozza, me la metteva sul camino, e mi faceva il bagno lì per non prendere freddo. E poi quindi si stava non tutti... una cosa si poteva fare due volte al giorno come si fa ora. Si dormiva tutti assieme poi praticamente, non è che c'erano poi tutte queste stanze, mi ricordo. No, noi avevamo ognuno la sua camera, cioè io dormivo con la nonna, però avevamo letti separati, la mia mamma, le case erano molto grandi, le case dei contadini, magari c'era la stanza di granaio, però la possibilità, le nostre case erano molto grandi per questo, soltanto non c'erano riscaldamenti. Ecco, cioè, lei da quando ha avuto un cambiamento poi radicale a questo tipo di vita? Mio babbo è uno, gli è sempre piaciuto leggere così, e quindi mi ha mandato a fare le medie, anche se allora non erano obbligatorie. E poi dopo le medie sono andata a lavorare in fabbrica. Quindi quando ha potuto è scappata, ecco, diciamo la verità. Quando ha potuto è scappata da questa situazione? Non siamo scappati, sono stati i genitori che la terra rendeva poco, e praticamente al momento che io sono andata a 15 anni a lavorare in fabbrica, la mia famiglia si è sentita riavere, perché avevo un fratellino piccolino che ci sono 13 anni fra me e lui. Io portando lo stipendio mensile, il mio babbo si è sentito riavere, perché un mezz'aro le risorse non erano tante. Infatti mio fratello ha potuto studiare, mio fratello è ingegnere. Grazie mille Siriana, la saluto. Abbiamo al telefono Camilla Colombi, che è una scrittrice, ha anche scritto un libro, I piaceri della campagna, di editrice Bupen, che anche lei ha fatto questa esperienza però a ritroso, signora, vero? Lei dalla città è scappata e è andata a vivere in campagna. Sì, esatto, io sono nata e cresciuta a Milano, e poi a una certa età, a 30 anni, mi sono sposata e mi sono trasferita in campagna. E ho raccontato appunto questa esperienza nel libro. Sì, ma non è che fa la contadina, vive una bella casa in campagna, come vivere a Milano praticamente, quello che fa lei? No, non è esattamente uguale, nel senso sì, vivo in campagna, ho un piccolo lavoretto part-time, però comunque con mio marito abbiamo cercato di recuperare il potere in cui stiamo, che era della famiglia di mio marito. E voi lavorate materialmente la terra? In parte sì, non è che lo coltiviamo tantissimo, però si fa l'orto, si lavora un piccolo campo, abbiamo un oliveto, produciamo il vino, facciamo noi il vino. Va bene, salutiamo in conclusione poi, perché manca un minuto, salutando Camilla. Paolo ha una casa in campagna e lo fa esclusivamente per i figli. Buongiorno Nicoletti. Siamo in conclusione, vada al sodo della sua esperienza, vediamo se... Questa mattina non ha telefonato nessuno dei radical chic filo campagnoli ricostruita e immaginare, tutte persone che hanno un rapporto, mi sembra, abbastanza sano con la campagna. È il suo caso? Sì, in un certo senso sì, però volevo andare un po' contro lo senso. E lo faccia in 10 secondi. Sì, che i milanesi, come li chiamano un po', come ci chiamano un po' delle persone di campagna, si fanno soprattutto una faticaccia micidiale, perché si parte il venerdì sera, si porta i figli, si fa respirare l'aria un po' buona, si fa l'orto, si cerca di fare qualcosa, però uno arriva la domenica sera che è più stanco di quando è tutta la settimana di lavoro. Oddio, la faticaccia la facciamo anche noi, che vi troviamo lungo le strade per entrare e per uscire dalle città con le vostre belle macchine, con i vostri bei bambini corroborati dalla campagna, con il vostro desiderio di avere una vita alternativa, che molte volte create alternative faticose anche alla nostra. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.